Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mi raccomando che non siano casi personali, ma che rappresentino una moltitudine di persone, perché i casi personali, che pur giungono numerosi, non posso trattarli. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Oggi parliamo di energia eolica, di fonti rinnovabili, perché le fonti rinnovabili sono un nuovo grande business economico per gli imprenditori onesti, purtroppo anche per la criminalità organizzata. Ricorderete alcuni giorni fa il Financial Times, riprendendo anche un'inchiesta del Sole 24 Ore, di cui mi occupa io personalmente circa un mese e mezzo fa, ricorda le mani di Cosa Nostra su questo business. Quando non ci sono le mani delle mafie, ci sono gli appetiti anche delle amministrazioni comunali, che talvolta mettono un po' i paletti tra le attività degli stessi imprenditori. Ne parliamo oggi proprio perché uno di questi imprenditori attivo nelle fonti rinnovabili, nell'energia eolica segnatamente, ci ha scritto una lunga lettera in cui denuncia il comportamento della Regione Calabria, che dopo 2 anni di rimpiattino di documenti provati, riprovati, quindi certificati, consegnati e riconsegnati, ha avuto alcuni giorni fa il no del via, vale a dire della valutazione di impatto ambientale. L'imprenditore che ci ha scritto, che non crede a quelle motivazioni, anche perché in una lettera al governatore Gazio Loiero della Regione Calabria mette sotto accusa anche le strutture e gli uffici della Regione Calabria per come hanno gestito la partita, non molla, oggi sarà negli uffici della Regione Calabria per perorare la sua causa nonostante il no. Noi abbiamo cercato la Regione Calabria, abbiamo parlato con il dirigente, chiamato in causa oltretutto Giuseppe Graziano, il quale ha cortesemente respinto l'invito a interloquire con chi? Con Giuseppe Capone, che è l'imprenditore che appunto ci ha scritto, che abbiamo oggi collegato con noi. Buongiorno Capone. Buongiorno dottor Galullo, io lo chiamerei il mio tortuoso percorso. Prego. Come l'inferno dantesco. Io inizio la mia storia nel campo delle energie rinnovabili già dal 2006, comincio a fare delle operazioni finanziarie, di trovare sicuramente dei partner importanti, dei partner industriali da poter credere nel progetto. Finalmente riesco a trovare un partner industriale, una società francese quotata sul mercato, rappresentata in Italia dalla magistrale Green Energy, capeggiata dalla Teolia. Teolia è il colosso francese, il secondo produttore di energia da fonte rinnovabile. Bene, credo in Pino Capone. Pino Capone già dal 2006 comincia a fare la sua strada, comincia a trovare i terreni, un partner privato. Nel 2007 stipula le sue convenzioni col comune di Belmonte Calabro, incomincia a trovare degli accordi di lasciare sul territorio sia un segnale forte, quello di dare delle royalty importanti sulla produttività, di fare delle opere e lasciarlo al comune come segno e di poter andare avanti. Bene, si procede a fare una prima convenzione, una convenzione approvata. Nel 2007 ancora a ottobre facciamo una presentazione di richiesta al via su screening. Allora, io mi fermerei un secondo qui. Allora, invitandola ad andare un po' più lentamente con la voce. Grazie. Allora, lei presenta come Engineering Construction questa richiesta di autorizzazione al via. Via, ricordiamo ai nostri radioascoltatori, è la valutazione di impatto ambientale. Ebbene, cosa accade? Che sarebbe lo screening, cioè la fase iniziale, dove certo. Se va bene così vi autorizzate, se no facciamo la valutazione di impatto ambientale. Loro cosa fanno? Mi rispondono esattamente dal 18 ottobre 2007, mi rispondono il 12 febbraio del 2008, in cui mi dicono non va bene, devi fare una suscettibilità di via. Io preparo il concetto via, intanto la società la fondo nella Belmonte Green Energy, dove non sono più io il partner di maggioranza, ma bensì magistrale Teolia. Presentiamo tutte le progettazioni, tutte quante, il 26-3 presentiamo alla regione la compatibilità ambientale, velocemente già a marzo. Da marzo ci scrivono a novembre, considerate questo tempo, da marzo a novembre quasi 4 mesi, 5 mesi, anche 8 come mi suggeriscono i miei collaboratori, ci arriva un'integrazione, ci scrive la Regione, la Segreteria di Via, un'integrazione in cui ci chiedono alcune integrazioni, la geologia, ci richiedono i dati del vento, ci richiedono una relazione archeologica e ci richiedono una simulazione fotografica delle torri. Bene, noi in modo generalmente spendiamo soldi, ci affidiamo al meglio che c'è sul mercato, andiamo alla sovrintendenza, chiediamo qual è lo studio migliore che c'è in Calabria, ci danno uno studio, ci segnalano loro uno studio importantissimo, facciamo fare questo. Scusi un secondo, questo vorrei chiarirlo. Loro sarebbe la Regione, vi segnala lo studio a cui rivolgervi? La Regione, io, Giuseppe Capone, vado alla sovrintendenza, chiedo quale sia uno dei migliori archeologi o studi di archeologia accreditati che abbia una credibilità in Calabria. Mi fanno una serie di nomi, io prendo il meglio che c'è sul mercato. Io la fermerei un secondo qui, perché vorrei riassumere per i nostri radioascoltatori. Allora, percorso tortuoso inizia nel 2007, una serie di risposte interlocutorie da parte da parte della Regione, ma oggi ancora non si vede luce. Oggi ho avuto una risposta, poi andiamo avanti un attimo velocemente. Mando queste integrazioni a novembre, figuratevi una cosa, da novembre, perché quando uno fa un'integrazione, secondo il mio professo, o la lingua italiana, ma saranno poi gli avvocati a decidere questo in sede di giudizio al Tribunale Amministrativo, la quale loro mi bocciano, mi mandano a dire, chiedono questi documenti, io li porto. Passano da novembre fino all'altro giorno, fino al 3 del mese di maggio, la quale io non ho più notizie, scrivo delle lettere alla Regione, al Dipartimento di Via, dove chiedo, scusatemi, mi potete ascoltare per cortesia i miei tecnici per essere ascoltati nella valutazione? Ho avuto promanibus la risposta, che è stata una risposta negativa, perché su Belmonte Calabro loro dicono, la segreteria di Via, la valutazione di impatto ambientale, che sono, io penso, delle persone molto serie, in cui mi dicono che c'è la presenza del lupo mannaro, che c'è la presenza del lupo, che c'è la presenza di tutti gli uccelli possibili e immaginabili. Ho battezzato allora il parco, invece di fare un parco eolico, la Regione Calabria su Belmonte potrà fare un parco florivivaistico. Ecco, allora io la interrompo un attimo. Le faccio questa domanda, dottor Capone, questa risposta negativa è giunta secondo lei perché non c'erano i requisiti, oppure perché, come lei ha scritto anche in una lettera al presidente Loiero pochissime settimane fa, dietro ci sono altri interessi, magari di altri gruppi con sponsor magari più importanti. A questo punto, dove è naturale e mi assumo la responsabilità di quello che dico, penso proprio di sì, perché scusatemi un attimo, tu ti hai avuto, mi mandi un progetto, ma anche questo è anche un giovane avvocato lo capisce subito, mi chiede un'integrazione al progetto, significa che tu il progetto l'hai già guardato, perché il progetto, se mandi queste integrazioni, il progetto è a posto. Invece tu non mi contesti il progetto, certo. Ma mi contesti l'altro, altre cose, perché ecco l'abuso dov'è? E poi io un'altra cosa, no, io vengo in Regione con molta educazione, insieme col presidente dei commercianti di Venezia Terme, e mi vengo a essere tolto fuori dal dirigente. A malo modo, io un imprenditore, ma non per il mio rispetto, per il mio rispetto degli operai che lavorano per me, che hanno creduto e credono in me tutti i giorni. Guardi, dottor Garullo, noi siamo impegnati sulle più belle opere della Calabria. Siamo una piccola azienda che, ecco, piccola ma snella, dove abbiamo creato, dopo tanti sacrifici, abbiamo creato un rapporto di famiglia, di familiarità. Perché se esiste l'imprenditore, esiste perché ci sono. Allora, io la interrompo un attimo, sì. Dottor Capone, perché la sua storia è chiarissima. Sì, è grazie. Chiarissima. A questo punto noi cercheremo la risposta delle istituzioni e ovviamente continueremo con il discorso dell'energia eolica nei prossimi giorni, perché è un tema vitale per l'economia, ma purtroppo anche si presta a delle distorsioni. Ringrazio l'imprenditore Giuseppe Capone, grazie in regia Valeria Bernardi, in studio Laura Fagin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.